oltraggi, l'obliar monte gli oltraggi, e bassezza e ogni or viltà, e bassezza e ogni or viltà. Col giudizio, col criterio, si potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe. Il fatto è serio. Ma credete si farà? Ma credete si farà? Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Qualche garbuglio si troverà. Siviglia, conosce Bartolo, il birbo Figaro, vinto sarà. Tutta Siviglia, conosce Bartolo, il birbo Figaro, vinto sarà. Il birbo Figaro, vinto sarà. Il birbo Figaro, vinto sarà. Vinto sarà.